4 mattino. Ciao Simone, io sono convinto di una cosa: se fosse andato Conte, se fosse andato Gualtieri, se fosse andato uno chiunque del governo italiano, avrebbe avuto lo stesso risultato, perché secondo me l'Europa, la Germania, la Francia sapeva già cosa dare all'Italia, sapeva già cosa dare all'Olanda, è stata solo una messa in scena. Dovete farmi capire una cosa, io vedo masnade di ragazzini che giocano insieme, io vivo al mare, giocano a pallone per la strada, giocano in spiaggia tutti insieme, tutti al mucchio, dentro l'acqua, fuori l'acqua, a casa, nei giardini. Poi quando vanno a scuola devono stare nei banchi separati. Ma non è incoerente, è incoerente. Questi stanno tutti insieme adesso, poi a scuola li separate. Non ha senso. La mia prima domanda è: perché le rotelle? Perché tavolo e sedie con le rotelle? Non ne capisco il senso, anzi quello potrebbe agevolare l'avvicinamento tra compagni in qualsiasi momento. Seconda cosa, si potrebbe usare benissimo questi tavolini doppi, ma invece di mettere due bambini se ne mette uno, che forse garantisce ancora di più la distanza interpersonale. Oh, questo non lo so, devo dire la verità, sulle rotelle sono perplesso anch'io. Un ascoltatore poco fa ci scriveva immaginando la raccolta dei bambini con che vengono in realtà avvicinati come una specie di gregge, trasportati, messi tutti insieme, tutti vicini, con questi banchi con le rotelle. Ma vedremo se saranno veramente ordinati, dopo tutte le perplessità suscitate, francamente ne dubito. In merito all'ascoltatrice che dice li vedo giocare sempre insieme in giro, sì, ha perfettamente ragione, in un ambiente chiuso le cose sono diverse rispetto ad un ambiente aperto, e questo ce l'hanno detto sempre tutti. Resta una certa perplessità, e però è chiaro che se stai seduto vicino per 5 ore a far lezione è peggio presumibilmente che farsi un bagno in mare tutti insieme. Infine, sul primo ascoltatore, quello che dice di chi è la vittoria, non lo so se tutti avrebbero ottenuto lo stesso risultato. In tutta sincerità, da quel che abbiamo capito, i negoziatori italiani sono stati comunque bravi. È stata in parte anche una vittoria italiana in termini di resistenza e di capacità di resistere alle pressioni dei paesi cosiddetti frugali. E certo, però, il fatto che Macron e Merkel volessero l'accordo non può essere ignorato, perché è stato il punto dirimente, cioè senza quei due l'accordo non ci sarebbe stato. Detto ciò, se ci sono vantaggi per l'Italia, in particolare per l'Italia, ebbene, un pezzo di lavoro i negoziatori italiani e probabilmente il Presidente del Consiglio, che se li ha scelti, va attribuito questo risultato. Con molto equilibrio, come dicevo prima, è un compromesso, e quindi il compromesso accontenta e scontenta insieme, come sempre. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti e 45 secondi. Se volete continuare a intervenire c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, oppure per gli SMS, i WhatsApp. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre. È mercoledì 22 luglio e i titoli dei giornali sono in gran parte ovviamente dedicati a quello che è successo in Europa. Il Corriere della Sera parla di un'Europa che svolta e di un'Italia alla prova. La Repubblica la mette sul quattrino. Europa, subito 20 miliardi, perché un decimo dei finanziamenti si può già utilizzare per le spese sostenute fin da febbraio, ammesso che rientrino nell'ambito delle riforme richieste. La mettono sul Presidente del Consiglio, il Messaggero, la Stampa. Il Messaggero scrive che Conte chiude al PD e dice no al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità. La Stampa dice, riporta una sorta di retroscena di Conte, che dice: i soldi del Fondo Europeo li gestisco io. Il Manifesto parla di compromesso storico in Europa. Il Quotidiano Nazionale Ecco quello che l'Europa vuole da noi. I soldi di Bruxelles sono vincolati alle riforme, pensioni nel mirino, i partner puntano al dietro front su quota 100. E poi gli investimenti su digitale, green economy, sanità e istruzione. Poi le interpretazioni un po' più politiche. Ossia, la lettura del Fatto Quotidiano, proprio a proposito di quello che ci diceva l'ascoltatore, così Conte e alleati hanno vinto la partita, il film dello storico Consiglio europeo, poi la svolta Merkel e poi il Premier che spacca l'asse dei frugali. E Libero e La Verità che la vedono brutta, negativa, festeggiano Conte perché ci indebita, scrive Libero. L'Europa ci presta soldi nostri ma solo dall'anno prossimo, scrive La Verità. Il Sole 24 Ore apre sui mercati perché Francoforte torna ai livelli pre-Covid e questo è un segnale importante. C'è anche un commento di Giovanni Tamburi su questo, un'analisi. A centropagina l'Europa, il 70% dei fondi va speso in 2 anni, ora la sfida è investire. E qua anche già dal commento di Adriana Cerretelli, compromesso nel nome di Angela, con una bellissima foto di Angela Merkel appunto. Diverse aperture invece dal Giornale d'Avvenire. Il Giornale parla di rivolta dei commercialisti, subito sciopero se il governo non rinvia le tasse. E Avvenire, il sì unanime all'assegno per i figli. Ne parleremo poi tra poco un po' più approfonditamente con Paolo Mieli. Però arriva l'assegno unico per i minorenni, nemmeno tanto minorenni perché fino ai 21 anni, approvato alla Camera da tutti i partiti. Andremo tra un attimo sempre con Paolo Mieli ai temi dell'Europa e ai commenti, alle analisi che troviamo in giro. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso ed è qualcosa che però potrebbe avere una coda politica, ve lo dico subito. Siamo a pagina 11 del quotidiano La Repubblica e siamo con Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, dove a mio giudizio c'è una vicenda che rischia di intrecciarsi con le scarcerazioni dei boss. Vedremo se ci sarà qualcuno che poi lo farà. In questo servizio di Repubblica la cosa non viene intrecciata a questo, però è presumibile che qualcuno ci torni sopra. Il punto qual è? Ricorderete che all'inizio dell'emergenza Covid ci furono delle rivolte nelle carceri. Ebbene, 10.000 i ribelli e i PM antimafia indagano sui boss. Qual è la sostanza di questo pezzo? La sostanza è che una parte di queste rivolte, e una parte consistente di queste rivolte, come qualcuno già sospettava, potrebbe essere stata sobillata esattamente dai boss mafiosi. È tutto fuori controllo. I detenuti mi hanno detto di spargere la voce. Da questo momento comandano loro. È il 9 marzo. Il paese che sta fuori sta per essere rinchiuso nel primo lockdown della storia d'Italia. Quello dentro invece ribolle. In un carcere del Mezzogiorno un agente della penitenziaria chiama al telefono i suoi superiori spiegando loro in sostanza che il nostro paese è diventato il Sud America. Gli istituti sono in fiamme. I reclusi muoiono, gli agenti vengono feriti, le celle e gli spazi comuni sono devastati. Lo Stato ha perso il controllo. Siamo tra il 7 e il 9 marzo, dunque ve lo ricorderete, le manifestazioni di protesta collettiva, incendi, danneggiamenti, risse che sono andate avanti fino al 20 aprile, hanno riguardato 49 istituti su 149 totali. E adesso l'attenzione degli investigatori e della Procura Nazionale Antimafia guidata da Federico Caffiero De Lao si concentra esattamente sul ruolo che potrebbero aver avuto i boss, in particolare quelli pugliesi e napoletani, cioè quelli della Sacra Corona Unita, i camorristi, in queste rivolte. Guardate che sono i deceduti, spiega un investigatore, perché morirono, lo ricorderete, 13 persone. Sono tutti detenuti difficili che hanno assaltato le farmacie interne. Sono cioè i più fragili, tossicodipendenti, disperati, che potrebbero essere stati usati come carne da macello da qualcuno che voleva mettere lo Stato in un angolo. E lo snodo che ci raccontano Giuliano Foschini e Fabio Tonacci è esattamente qua. Rivolta ovviamente di diverso tipo, rivolta civile, ipotesi di sciopero, è quella che domina la prima pagina del giornale della quale troviamo i contenuti a pagina 3 con Lodovica Bulian, ed è quella dei commercialisti. Il tema è ancora una volta questo rinvio delle scadenze fiscali che non è mai arrivato. Stop tasse o scioperiamo. La protesta che arriva in Senato e addirittura i commercialisti, ci racconta Lodovica Bulian, che sono pronti a non inviare i dati a settembre, i dati ai contribuenti a settembre, se il governo non proroga i termini, e dunque metterebbero la manovra a rischio. Dopo i ripetuti appelli caduti nel vuoto, ora le azioni forti. La mancata proroga delle scadenze fiscali al 30 settembre, chiesta dalle categorie per far fronte alla difficoltà di liquidità delle imprese e di lavoratori sfiniti dalla crisi Covid, oltre che alla mole di adempimenti, appunto, arrivano alla minaccia di sciopero o addirittura alla disobbedienza e all'astensione dall'invio di dati fiscali in occasione delle prossime scadenze di settembre. Qua vi devo segnalare anche interessante l'intervista a pagina 30 al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a pagina 30 del Corriere della Sera, con Enrico Marro, il quale dice che presto si arriverà all'addio ad acconti e saldi. Dovrebbe arrivare il fisco in tempo reale, come ne abbiamo parlato l'altro giorno col vice ministro Misiani, ve lo ricorderete, ed è uno spunto interessante, un cambiamento per certi versi epocale, si arriverebbe dunque al pagamento delle tasse per quello che effettivamente hai guadagnato. Trovate un po' su tutti i giornali, ed è un tema di discussione soprattutto tra gli appassionati di montagna, ma non solo, ha a che fare con i rapporti tra padri e figli, e noi lo peschiamo dalla Stampa, pagina 16, ed è la storia di un uomo che Chris si chiama, Chris Molyneux, è scozzese, anzi è nordirlandese, ha 42 anni e col figlio di 11 è arrivato sulla cima del Cervino, figlio di 11 anni. E dunque c'è un grande dibattito, lo racconta Enrico Martinet sulla Stampa, appunto, c'è un grande dibattito e un'impresa che divide l'alpinismo, e ci sono varie opinioni. Per la guida del Cervino Lucio Trucco è vanità di padre, per il presidente delle guide valdostane italiane Pietro Giglio non c'è notizia, e se lo ha fatto per sua volontà in sicurezza, come mi pare sia accaduto, bene, per la questione altitudine e fatica parlino i medici, i quali medici dicono dal punto di vista fisiologico non ci sono problemi. La realtà, e la cosa interessante, è che si scatena questo dibattito quando cose di questo genere sono già avvenute in sostanza. Per esempio, ci sono due bimbi che hanno fatto meglio, entrambi figli di due guide alpine, di Cervini e di Zermatt. Sono saliti a 4.478 metri della cima del Cervino a 8 anni e mezzo. Jasmine, figlia di Nicola Corradi, che ha affrontato la cresta del Leone, la via italiana più difficile della Hornli, quella percorsa dal ragazzo Jules Molyneux. E Kevin Lobert, figlio di Kurt, che all'epoca era anche custode della capanna Hornley, punto base per salire in vetta sulle orme dei primi salitori guidati da Edward Whymper nel 1865. Dibattito aperto, vanità di padre o volontà di figlio? Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Caro Paolo Mieli, buongiorno, come va? Bene? Oggi grande festa. Grande festa. Senti, è tornato Torero della Carmen, vincitore. Ha vinto Conte? No, sono stati Merkel e Macron. No, ha vinto Rutte? No, ha vinto Orbán? No, ha vinto Rutte, non lo dice nessuno, neanche i giornali olandesi. Ho controllato stamattina, perché Rutte è stato sommerso da, dove si vota fra 9 mesi, è stato sommerso, l'ho letto anche in un articolo di Federico Fubini, tweet che suonano così: vergognati, sei un grande bastardo, un ladro, per anni abbiamo tagliato su tutto, lavoriamo 10 anni più degli italiani e francesi, regalagli il tuo cane, oppure marcisci, sporco bugiardo, impoverisci l'Olanda per corrompere l'Europa del Sud. Pensi davvero che Francia e Italia, dopo essersene infischiate del patto di stabilità, faranno le riforme? Insomma, il povero Rutte, sì, in realtà deve affrontare, ripeto, le elezioni. È stato discretamente massacrato su questo fronte. Però, invece, non è che ce ne importa di Rutte. Oggi festeggiamo Conte, i toni nei giornali sono fra il serio, come il Sole 24 Ore, il 70% dei fondi va speso in 2 anni, ricorda punto per punto articoli davvero eccellenti di Beda Romano, Adriana Cerretelli, che mette in rilievo come il nome di questo trionfo sia quello di Angela Merkel, poi ce n'è anche l'articolo di Gerardo Pelosi, Conte esulta perché in effetti ieri non si è trattenuto, sì. Comunque dicevo, i giornali che esultano più di tutti gli altri sono i soliti due giornali che inneggiano a Conte, il Foglio e il Fatto. Il Foglio addirittura dedica una prima pagina, tutta una grande vignetta in cui consiglia il Malox a Salvini, adesso vorremmo a Salvini, sì. E il Fatto, sfottendo in modo più ironico tutti coloro che gufavano, dicevano. Sì, c'è questa vignetta di Macox che rappresenta un'enorme bottiglia con scritto Malox sopra e un piccolo Salvini che urla maledetti. C'è scritto Malox, 209 miliardi di dosi da assumersi prima e dopo i bacioni rosiconi. Questa è la grande vignetta. Poi a leggerli questi giornali sul Foglio, ho letto che la Merkel avrebbe detto a Conte: ognuno sceglie il proprio posto, ma con te è stato più facile trovarlo. Cioè tutti in ginocchio, anche la Merkel in ginocchio da riconosci i giornali italiani. Sì, e poi, sì, sì. Adesso ti faccio un esame, però, in breve, sì. Rapido. Sì. Conte è stato trionfatore. Adesso cosa bisogna fare? Vediamo se sta scrivendo un editoriale. Le riforme. Bravo. Le riforme. È il momento delle riforme. E poi che cos'è subito da adottare? Il MES, il Fondo Salva Stati. Perché non fai degli editorialisti? Fare la radio qui. Comunque, penso per te. Allora, tutti i giornali dicono adesso è il momento delle riforme. L'articolo più importante mi sembra quello di Mario Monti sul Corriere della Sera. E a chiedere il MES sono tutti, dal presidente di Confindustria Enrico Letta, Veronica De Romanis. Non posso fare una rassegna, sì. Beh, una ragione ce l'hanno, visto che la parte prestata di questi soldi ha delle condizionalità e il MES sì. Non le ha, cioè costano più i soldi prestati in questo accordo monstra sì. Che quelli del MES. In più quelli del MES arrivano subito, però questo è un ragionamento che non tiene conto delle obiezioni politiche. C'è sì. Un altro piccolo trionfatore, te lo vorrei segnalare, che è Orbán, perché sì. Orbán, ungherese, zitto, facendo un accordo con Conte, ha ottenuto che la passassero liscia per le violazioni allo Stato di diritto. Sembrava che in questo vertice venissero fuori delle punizioni anche economiche per le sue violazioni dello Stato di diritto, invece siccome si è associato all'urlo contro Rutte, povero Rutte, farà sì. Una brutta fine, all'urlo contro Rutte e alla solidarietà dichiarata all'Italia, nessuno più eccepisce hanno annacquato molto quella parte, ci hanno messo un riferimento sì. Ma senza poi incidere davvero. Invece i giornali francesi sono spietati con questa cosa, perché sì. La Francia insieme all'Olanda è la più dura con Orbán, mentre invece sui giornali italiani l'unico cenno un po' pepato l'ho trovato sul Fatto, per il resto non ce n'è molto. Sì, poi è un pezzo di taglio basso, per esempio su Repubblica, pagina 2, di Alberto D'Argenio. Nel testo finale spunta una clausola anti-sovranisti, però non è in realtà una clausola anti-sovranisti, è appunto, come dicevamo, una cosa molto annacquata sotto questo fronte rispetto a quello che si ipotizzava prima, perché quello che si ipotizzava era un taglio dei fondi nel caso ci fosse una violazione dello Stato di diritto, quindi era molto più tosta inizialmente. Direi che è una differenza abissale. Salvini non ha saputo trovare le parole adatte, mentre la Meloni ha fatto una figura, mi sembra, eccellente, nel senso che già il giorno prima, quando ha capito l'andazzo, ha detto: io bene o male, ma sto con la mia, con l'Italia, non sarò qui a fare. Invece Salvini ha fatto, si è presentato a una conferenza stampa con Bagnai, che è più euroscettico fra i suoi, e ha detto che è un tradimento, che è uno schifo. Avrà fatto i suoi calcoli, ma oggi anche sui giornali viene, su tutti i giornali, diciamo, anche quelli più di destra, viene dato più luce alla Meloni e a Berlusconi di quanto ne venga dato a lui. Sì. E poi zitti zitti stiamo marciando, questo l'hai visto, questo sarà anche un primo effetto del clima, verso questo assegno, che è una notizia clamorosa, solo l'Avvenire sì. La dà in grande, sì, sì. Un assegno di 200 euro per ogni neonato da quando nasce a quando avrà 21 anni, 200 euro al mese, 300 se è disabile o ha dei problemi. A me sembra una grande notizia, mette insieme vecchie mance, prebende. L'unica sì. Cosa che non ho capito è se uno i figli è da adesso in poi, ma se uno i figli ce ne ha già, per esempio tu ce ne hai tre in quell'età, sì. Lo prendi? Non lo so ancora, non mi è ancora chiaro, però teoricamente se assorbe e tutte le detrazioni e deduzioni che adesso ci sono, teoricamente sì, adesso non so se ci rientro in termini di reddito, però insomma. Sì, li usi per le decorazioni della tua sontuosa villa Santorini. la famosa villa di Santorini, sì, ma chi l'ha tirata fuori questa storia? Non me lo ricordo nemmeno più. Noi teniamo la fissa, sì. È il nostro elemento, del resto adesso finisce 24 mattine, quindi sabato sarò nella mia lussuosa villa di Santorini. Il traffico. Promo 24 Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Andrei, caro Paolo, alle cronache da Covid, e se mi consenti vorrei iniziare da questo pezzo a pagina 10 della Stampa di taglio basso di Olivia Stevanin, che dà un po' l'idea di come possono funzionare le cose. Il titolo è: a Savona paura per il cluster del sushi, controlli a tappeto, già 1500 persone in isolamento. Sono 1500, Succede che viene ricoverato il pallanuotista azzurro Matteo Aicardi, risulta positivo al tampone, tre infermiere si scoprono positive, si scopre che avevano mangiato nello stesso ristorante sushi, si controlla, si trovano 8 dipendenti di questo ristorante positivi e quindi 1500 persone in isolamento. Dobbiamo imparare a convivere. Ti ricorderai l'altro giorno c'era stato uno stabilimento balneare a Ostia che hanno chiuso perché c'era un cameriere che era positivo, e ne vedremo a pioggia, anche perché nel mondo, ripeto, ogni settimana andiamo avanti a 260.000 contagiati al giorno e oggi siamo al record di 15 milioni, 4 milioni negli Stati Uniti. Queste persone in parte viaggiano, ne contagiano. Oggi i giornali parlano di una diffusione shock nei Balcani, sì. E quindi la diffusione shock nei Balcani non è che all'altro capo dell'oceano. Sì. Però in Austria, in Austria da venerdì torna l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici, tanto per dare un'idea. Prego. Comunque l'Austria ha scoperto i cani anticontagio, che questa non è una notizia di oggi, ma dell'altro giorno. No, volevo dire prima su Avvenire, mi sono dimenticato di dire che l'Avvenire meritoriamente ogni giorno dà notizia, anche insomma uno tra i pochi giornali che fa in maniera adeguata, al fatto che c'è un barcone alla deriva, un gommone sgonfio con 120 persone, nessuno li aiuta, poveretti, A dire il vero c'è anche un articolo di Valentina Raffa sul giornale Bello Grande, però insomma la seguirei con maggiore attenzione. Ma sì, se dicevi, tornando al Covid, mi sembra interessante un editoriale di Federico Rampini su Repubblica che dice, guarda, sul New York Times nessuno dice che l'Europa è un modello, cioè assolutamente i governanti europei, leggo per virgolette, si vantano di avere la migliore sanità del mondo, il New York Times, non è Rampini, sì, ma l'avevano indebolita con un decennio di tagli, migliaia di pagine di pianificazione nazionale per le pandemie si sono rivelati degli oziosi esercizi, e poi fa un calcolo, cioè, se noi calcoliamo i malati per abitante, sì, in testa nel mondo ci sono Belgio, Regno Unito, Spagna, Italia, Svezia, Francia, e solo dopo arrivano gli Stati Uniti, cioè il rapporto sì, uno a uno. Insomma, è molto severo, siccome il New York Times è il giornale più antitrampiano che esista al mondo, più dei nostri, insomma mi fermerei a riflettere sia sull'articolo di Rampini che su quello del New York Times, sì, per chi lo vuole leggere. Allora, due vicende, Paolo, che hanno a che fare con la giustizia. La prima è sicuramente il processo Eni e la seconda è tutta la vicenda del CSM che si arricchisce di un rinvio. Vogliamo partire da qua, che dici? Dal caso Palamara. Il CSM, c'è uno scontro fra Palamara e l'uomo più potente nella magistratura, che è per Camillo Davigo. Palamara l'ha chiamato a testimone, Davigo dovrebbe giudicarlo, è nella commissione che dovrebbe giudicarlo, si pone un conflitto e per risolvere questo conflitto, che se capisco bene la cosa della magistratura si risolverà a vantaggio di Davigo, si sono presi due mesetti, cioè da adesso al 15 settembre. Ti ricordi quando che la fretta di giudicare il caso Affari Pulizia, il monito del capo dello Stato, due mesi non guasta nessuno, soprattutto d'estate, dopo per essere carità, stati tranquilli ai tempi del lockdown. Facciamo tutte le ferie che dobbiamo fare e poi ci occupiamo del caso Palamara. No, per carità, un grande nel rispetto. Nel frattempo è stata chiesta la condanna di De Scalzi, anche del suo predecessore Scarone, alla guida dell'Eni e di altre persone, una condanna pesante. La difesa ovviamente dice non c'è nulla di condannabile, però questa richiesta di condanna, siccome De Scalzi è appena stato rinominato, può avere ripercussioni politiche, avere ripercussioni fra i 5 Stelle che hanno un po' storto la bocca di fronte a questa rinomina, ma poi quello che viene chiamato il deep state, cioè lo stato segreto, quello dove si decidono le cose, gli ho detto non rompete le scatole. Sì. De Scalzi e De Scalzi deve essere. E che De Scalzi deve essere. Senti, Paolo, siamo quasi in chiusura. Volevo dirti che mi ha incuriosito. In realtà mi hai richiamato prima tu la mia attenzione su questa storia. Pagina 15 del Corriere della Sera. Lo sapevo. È stupenda. È la storia. Tu la sei storia un complottista. Certamente. Allora, la storia è questa. Ci sono delle teorie del complotto sul figlio del premier britannico Boris Johnson. Io francamente non ho capito come funziona esattamente questa cosa. Che si è presentato la prima foto di Boris Johnson con il bambino che dovrebbe essere nato in aprile, 3 mesi fa. È un gigante questo bambino, pieno di capelli, un bambino che sembra avere un anno e mezzo, per cui tutti hanno cominciato a dire, siccome prima era stato annunciato che nasceva ad agosto, poi è nato ad aprile, quindi sarebbe nato molto prematuro, vedere questo bimbo gigante ha fatto nascere sui giornali inglesi, ma non solo i tabloid, dappertutto, delle teorie che è un figlio finto, che è una invenzione di Pausino, di quale peraltro ne ha 6-7 di figli già dichiarati da più. Alcuni dicono che il figlio non esiste, qualcun altro dice che il figlio c'è, ma sarebbe nato molto prima, attorno a Natale, tenuto segreto perché Boris non aveva ancora divorziato dalla moglie Marina, e quindi tutta la teoria del complotto su Boris Johnson. Ma questa continuerà, perché effettivamente devo dire che questo bambino è bello, è baffutello, anche se si vede carezzato dalla madre, si vede di schiena, non c'è dalla faccia, e soprattutto ha più capelli di Boris Johnson. Che già è notevole, e quindi chi vuol leggere i giornali inglesi, ma anche il Corriere della Sera, come tu hai detto, pagina 2015 con un articolo di Luigi Ippolito, saprà tutto del figlio misterioso di Boris Johnson. Ovviamente se ne siete incuriositi. Paolo, ti voglio dire in chiusura che un ascoltatore che ha scritto e mi ha scoperto, dice che a Santorini mi chiamano il piccolo Onassis. Adesso... Piccolo, ma sei alto 5 metri. Il grande Onassis, a dire il vero. Grazie Paolo Mieli. Ci risentiamo venerdì per l'ultimo appuntamento di quest'anno. Però l'ultimo, poi torneremo non a settembre, l'ultimo giorno di agosto. Il 31 di agosto. Ci risentiamo venerdì, Paolo, per il nostro appuntamento con la rassegna stampa GR24. Ci ritroviamo tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti, con Heike Schmidt, il direttore degli Uffizi. Parliamo.